vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 14 giugno, il sole in regione sorto alle 5.15 e tramonterà alle 21. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. In apertura della puntata odierna, un aggiornamento sul prezzo del latte e sulle dinamiche che concorrono alla sua formazione. A seguire il corsivo di Enos Costantini, che analizza ancora una volta le distorsioni che l'industria alimentare opera sui prodotti dell'agricoltura. Ci sono contributi pubblici a ristoro dei danni causati ai frutteti dalla cimice marmorata asiatica, con le istruzioni per l'uso nella rubrica delle normative, per passare poi a una scheda sulla temibile mosca dell'olivo e un contributo sullo studio di prodotti alternativi per la produzione della birra, test in corso all'Università di Udine. Per la rubrica dei giardini, una scheda sul castello e parco di Flambruzzo e le sue magie di verde e acque. In conclusione, andamento dei mercati, le previsioni del tempo per la prossima settimana e il proverbio friulano di vita nei campi. Il prezzo del latte è sempre un argomento di attualità nel panorama zootecnico e agricolo, non solo del Friuli Venezia Giulia. C'è la Commissione Lattiero-Casearia, istituita alla Camera di Commercio di Udine, che ogni settimana, il venerdì, indica il prezzo di riferimento per il latte. A presiederla c'è Graziano Zanello, cui chiediamo subito: quali sono i parametri che concorrono alla formazione del prezzo del latte qui in Friuli Venezia Giulia? Teniamo presente tre parametri importanti. Il primo è il latte spot, che si trova anche ufficialmente sul sito clal.it, in particolar modo quello di riferimento italiano. Poi abbiamo il prezzo che viene pattuito in Lombardia, perché è la regione più grossa, quella che produce più latte in tutta Italia, e un occhio lo si tiene anche al prezzo che viene fatto in Germania. Ecco, qual è l'andamento del prezzo che ormai dobbiamo dire sempre pre e post pandemia coronavirus? Ci sono state delle variazioni? Certo, abbiamo preso paura come allevatori, perché appena scoppiata l'epidemia, a 15 giorni dallo scoppio, quello importante, il prezzo su CLAL, quindi quello latte spot, è calato drasticamente. Poi abbiamo visto invece, fortunatamente, che è iniziato a riprendere, questo da circa 15-20 giorni, questo ci dà speranza e fiducia nell'andare avanti. Speculazione? Sempre. Purtroppo l'industria, a nostro modo di vedere, ci ha giocato, perché hanno iniziato a dire che i consumi erano calati, invece non era assolutamente vero. È vero che l'Horeca purtroppo è diminuita, chiudendo i ristoranti, i bar, e questo ovviamente va detto, nessuno di noi ha potuto per 3 mesi andare a prenderci un caffè o un cappuccino, però il consumo di latte, di latticini, c'è stato un aumento sia nella grande distribuzione che negli spazi aziendali e anche negli stessi spazi della latteria. Questo per fortuna ha tenuto e ci ha tenuto in piedi e ci fa andare avanti, ma la speculazione ci gioca ogni volta. Ci sono state delle settimane in cui non avete fatto neanche il prezzo, non avete indicato il prezzo, non vi siete neanche riuniti. Adesso lo fate via Skype. Qual è il prezzo che avete indicato venerdì scorso? 36,5 è un prezzo indicativo e sarà tendenziale alla salita, cioè abbiamo notato negli ultimi giorni, dopo aver fatto la quotazione, che comunque sta tenendo ed è leggermente in salita. Per quanto riguarda il margine di guadagno dell'allevatore, è sempre infimo? Purtroppo sì, è molto basso, giochiamo coi centesimi. Le strategie, ce ne sono tante, innanzitutto avere una regione che crede in questo settore e poi anche gli allevatori che devono agire in modo diverso da quello che si è fatto fino adesso. Non è semplice, ma ce la possiamo fare. La mano pubblica può dare una mano, appunto? Assolutamente sì, ma non tanto quello di elargire contributi, perché quelli delle volte sono fini a se stessi, ma quello di fare una politica di un certo tipo, ad esempio far capire al consumatore che il latte non fa male ma fa del bene, che i formaggi, se consumati in una determinata maniera, sia di qualità, che si fa bene a mangiarli e fa bene alla dieta. Per quanto riguarda appunto questo futuro che lei vede abbastanza roseo, dove si potrebbe arrivare come prezzo? Un euro al litro. quello sarebbe il prezzo ideale per l'allevatore. Così l'allevatore lavora, fa economia, fa lavorare altre persone e fa bene all'economia tutta, quella friulana e quella italiana. Quasi triplicare. Certo, senza paura. Agricoltura e industria non è proprio un binomio perfetto e secondo Enos Costantini la seconda snatura i prodotti della prima creando spesso cose inutili e dannose che chiamano comunque food. Forse abbiamo perso il senso di ciò che è utile, necessario, indispensabile e di ciò che è superfluo, inutile e dannoso. Non voglio qui fare il trito esempio di come l'ultimo telefonino non sia proprio indispensabile ma faccia gola a molti. Dirò che una bibita artificialmente zuccherata, colorata, aromatizzata, più che superflua, è inutile e dannosa. L'agricoltura, invece, è utile, necessaria e indispensabile. Mi si dirà che gli zuccheri presenti nelle bibite da supermarket sono pur sempre un prodotto agricolo. No, sono il prodotto di una visione tanto riduzionista quanto distorta dell'industria applicata all'agricoltura. Le vere industrie agrarie, olearia, casearia ed enologica, non vanno confuse con l'industria del food. Le prime non distruggono, ma basandosi su un empirismo nato con l'agricoltura, elaborano la materia prima per arrivare a prodotti finali stabili nel tempo e nello spazio, senza bisogno di conservanti, coloranti e catena del freddo. L'industria del food distrugge le granelle o il latte, chiamiamolo pure cracking che rende l'idea, onde ricavarne decine di sostanze che poi vengono assemblate in un prodotto finale completamente inventato, straripante di troppo sale, di grassi e di zuccheri antinutrizionali, di conservanti inquietanti, di confezioni inquinanti e di pubblicità ossessionanti. Confrontate pure la composizione di un dolce fatto in casa con l'etichetta di una merendina. Da almeno 50 anni le multinazionali del food, ora il cibo si chiama food, ci riempiono la testa e anche qualcos'altro con pubblicità per prodotti fantasmagorici e ipercalorici, per cibi metaforici e allegorici. Ebbene, dove sta l'agricoltura in tutto ciò? Qui non voglio fare del vittimismo, del sindacalismo, ma lì l'agricoltura non ha nessun interesse vero e duraturo. Comprate FVG, vi hanno detto. Certo, ma anche se non capisco come un acronimo possa avere appeal, dico che non basta. Bisogna fare delle scelte per l'agricoltura regionale. Insomma, in futuro dovremo fare farine per merendine oppure fagioli per proteine e broccoli per vitamine? Con Marco Malison, responsabile tecnico economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, riprendiamo oggi il tema della cimice marmorata asiatica, con particolare riferimento al ristoro dei danni provocati alle coltivazioni nel corso del 2019. Beh, intanto diciamo che dalle prime osservazioni in campo quest'anno la presenza della cimice asiatica sembra essere in flessione rispetto alle scorse stagioni, ma nessuno si fa grandi illusioni e ottenute le tanto attese autorizzazioni ministeriali, l'ERSA sta già preparando a liberare esemplari della cosiddetta Vespa Samurai con l'obiettivo di stabilire un controllo biologico. Il bilancio dei danni dell'ultimo triennio, specie nei frutteti del Medio Friuli e della Bassa, però resta pesantissimo. E l'amministrazione regionale aveva però chiesto aiuti concreti al governo. Sì, il Friuli Venezia Giulia, assieme a Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento di eccezionalità dell'infestazione di cimice in modo da poter attivare i risarcimenti a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale. Già lo scorso dicembre, con la legge di bilancio 2020, il Parlamento aveva approvato uno specifico stanziamento di 80 milioni di euro e il 6 giugno è stato finalmente pubblicato il decreto ministeriale che delimita l'areale del danno e di fatto dà il via alle domande di risarcimento che dovranno essere presentate alle regioni entro il 17 di luglio. Chi ha diritto a questi risarcimenti? Premesso che l'indennizzo è riconosciuto solo per i danni alle produzioni di frutta, quindi actinidi, albicocco, ciliegio, melo, nocciolo, olivo, pero, pesco, nettarina e susino, potranno presentare domanda solo le aziende che nel 2019 dimostreranno di aver avuto un danno complessivo aziendale di almeno il 30% rispetto alla produzione lorda vendibile del triennio precedente. Nel calcolo della PLV dovranno essere considerate tutte le colture, comprese quelle non danneggiate come i seminativi, le orticole e i vigneti, con riferimento alle rese medie tabellari fornite dal SIAN e ai prezzi massimi fissati dal Ministero per le assicurazioni agevolate. Non entrano nel calcolo della PLV le produzioni zootecniche, eventuali prodotti trasformati come il vino e proventi da attività connesse come ad esempio l'agriturismo. Cos'è la PLV e a quanto ammonta l'indennizzo? Allora, il decreto parla di un indennizzo massimo dell'80% del danno accertato, ma riteniamo che la percentuale sarà assai più bassa, visto che le regioni avevano stimato perdite per diverse centinaia di milioni di euro a fronte di una dotazione di 80 milioni. Aggiungo però che quanti possono dimostrare un danno superiore al 30%, avranno anche diritto a richiedere all'INPS lo sgravio dei contributi previdenziali per una percentuale variabile tra il 25 e il 50% su 12 mensilità. La PLV è la produzione lorda vendibile dell'azienda. Marco Stocco oggi con la mosca dell'olivo chiude un mini ciclo dedicato agli insetti dannosi per la produzione olearia. La mosca è il parassita principale delle olivette della regione. È presente in tutti gli areali di coltivazione e in stagioni favorevoli può provocare ingenti perdite alla produzione, sia in termini quantitativi che qualitativi. La mosca è un insetto che sverna come pupa nel terreno o come larva nelle olive non raccolte. Nel 2020 bisognerà porre particolare attenzione all'insetto, dato che nella stagione scorsa in regione pochi produttori hanno raccolto. Le condizioni di temperatura ideale di questo insetto sono quelle comprese tra 22 e 30 gradi. La prima attività di ovideposizione avviene sulle olive a partire da giugno fino a luglio. Ogni femmina adulta può deporre fino a 250 uova, una per oliva. L'uovo si schiude dopo pochi giorni e la larva inizia a nutrirsi della polpa dei frutti sempre più in profondità nei tessuti fino a raggiungere il nocciolo. A piena maturità si impupa nell'oliva stessa. A distanza di circa una settimana vi è lo sfarfallamento dell'insetto adulto e ricomincia un nuovo ciclo. In media la durata di una generazione dalla deposizione delle uova allo sfarfallamento è di circa 3 settimane. Nei nostri areali si compiono di solito 2-3 generazioni all'anno, a seconda dell'andamento climatico. Un clima caldo e siccitoso, tipico dei mesi estivi, rallenta la deposizione delle uova aumentandone la mortalità delle stesse. L'insetto però riprende attività tra fine estate e l'autunno. La lotta all'insetto dovrà essere di tipo preventivo, anche a seguito della revoca della sostanza di metoato, utilizzando esche proteiche attivate con insetticida, prediligendo nei nuovi impianti varietà drupa piccola e quindi meno sensibili. Risultati soddisfacenti si ottengono con la miscela caolino e silicato, che ha la funzione di repellente e antideponente. I prodotti larvicidi, e quindi curativi, dovranno essere limitati, in quanto vi è la possibilità che essi residuino nell'olio. L'ERSA esegue, dalla legazione in poi, monitoraggi settimanali sull'insetto e i dati sono disponibili sul sito ERSA e sul canale Telegram. Per la rubrica dell'Università e Ricerca in campo agricolo e agroalimentare, oggi Paolo Passaghe, dottore di ricerca in scienze degli alimenti, ci parla di ingredienti alternativi nella produzione della birra, ingredienti testati nei laboratori dell'Università di Udine che ha uno specifico insegnamento dedicato appunto alla birra. Perché è importante lo studio, la valutazione di ingredienti alternativi nella formulazione di una birra? È importante perché sono due gli obiettivi perseguiti, per semplificare. Il primo è la valorizzazione delle materie prime legate al territorio, valorizzazione realizzata attraverso lo studio delle proprietà maricanti, delle note aromatiche, del potere colorante, quindi di tutta una serie di caratteristiche che possono essere sfruttate per produrre delle birre con note ricercate e maggiormente legate al territorio. Un altro obiettivo è quello di individuare ingredienti, alimenti ad oggi sottovalutati o addirittura non presenti nella dieta, i cosiddetti scarti, al fine di aumentare il portafoglio di materie prime che possono essere potenzialmente impiegate nel settore brassicolo, nella filiera della produzione della birra. Queste prove di formulazione si realizzano inizialmente a livello di laboratorio con test che implicano la produzione di pochi litri nei laboratori del Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali ed Animali dell'Università degli Studi di Udine, presso il gruppo di ricerca della birra. Questi test servono ad individuare i dosaggi, i momenti di impiego, al fine di esaltare le caratteristiche che ho descritto precedentemente. Individuate le condizioni ottimali, la produzione viene trasferita su più grande scala e questo può essere raggiunto come obiettivo attraverso l'utilizzo di impianti dei quali si è dotata l'Università di Udine, ovvero la birreria sperimentale con una capacità di 150 litri e la malteria con una capacità di 500 kg. Due impianti che ci consentano, per così dire, di chiudere il cerchio e quindi di avere una completa tracciabilità e un controllo della qualità dal campo al boccale. Tutti questi risultati e queste prove di formulazioni alternative vengono spesso pubblicati su riviste scientifiche e presentati in congressi internazionali. Ma l'interesse non è solo di tipo accademico, sono infatti molte le realtà produttive che hanno la volontà di allargare il proprio background culturale e quindi avere nuove informazioni per produrre prodotti nuovi, in grado di soddisfare una classe di consumatori sempre più interessata ed informata e quindi esigente. Il castello di Flambruzzo e le sue magie tra verde e acque sono al centro dell'intervento di oggi di Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini. Il luogo è suggestivo. In origine era un castello medioevale di pianura e tuttora si entra oltrepassando un ponte, un tempo levatoio, e a lato si vedono una vecchia torre, un lungo muro merlato e il fossato con l'acqua. Tutto il contesto, trasformato in villa con parco, fu acquistato dopo la Seconda Guerra Mondiale da Mario Badoglio, figlio di Pietro Badoglio, famoso generale e politico del primo Novecento. La famiglia Badoglio abita tuttora la villa, che apre al pubblico in occasione della manifestazione Castelli Aperti e altri eventi. Il salone centrale si apre sul parco, una meravigliosa distesa verde di quasi 4 ettari, con grandi alberi secolari, boschetti e una rigogliosa vegetazione ripariale. Siamo nella zona delle risorgive e del fiume Stella. L'abbondanza d'acqua consente di alimentare roggette che scorrono nel parco, calme e limpide, con erbe e alghe fluttuanti. Le rive sono collegate da 6 ponticelli in legno. Il patrimonio botanico è notevole. Spiccano la quercia monumentale che si aggira sui 400 anni e una magnolia grandiflora, alta e imponente, che assieme a un'altra più giovane diffonde un denso profumo durante la fioritura primaverile. Agli inizi dell'Ottocento nel parco fu inglobato un lembo del bosco planiziale, cioè l'antico bosco tipico delle pianure, formato da querce assieme a carpini, olmi, aceri campestri e frassini. Il parco fu ridisegnato nel corso del Novecento e assunse l'aspetto attuale con laghetti, montagnole belvedere e l'estensione a prato di notevole effetto visivo. Furono introdotte altre specie arboree, fra cui lecci e cipressi calvi. Durante l'anno predomina il verde, ma d'autunno i grandi alberi, i boschetti e le sponde si accendono dei colori vivaci delle chiome che si specchiano nell'acqua creando visioni spettacolari. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, avvenute ancora attraverso videoconferenze. Il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento e l'orzo non sono stati quotati in attesa del nuovo raccolto. Scambi in ripresa all'ortofrutticolo di Udine con prezzi stabili. Risalto Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso 0,90 1 euro il chilo IVA esclusa. Le zucchine e melanzane tonde tra 1,30 €, i peperoni gialli e rossi tra 1,70 e 1,90, i pomodori in grappolo tra 1,20 e 1,40, la scalola riccia tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 2,40 e 2,70, il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,30, quello di Treviso precoce tra 1,50 e 1,70, i kiwi tra 3 e 3,80, le fragole tra 4,50 e 5 euro, le ciliegie da 3,80 a 5,50, i meloni tra 1 e 1,90, le pesche noci tra 1,50 e 2,50, le albicocche da 2,50 a 4,50, l'uva bianca e nera tra 3,50 e 4,50 e l'anguria da 0,65 a 0,85. Settimana travagliata nel settore della pesca per le condizioni del tempo non ottimali, con prezzi leggermente in aumento. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 25 a 34 euro al chilo IVA esclusa, le ombrine da 13 a 25, i laterini tra 9 e 13, i gamberetti da 12 a 17, le sogliole da 8 a 25, le seppie da 9 a 15, i calamari e i calamaretti da 22 a 28, le orate da 10 a 18, i cefali da 2 a 6, le passere da 12 a 16, le capesante da 10 a 15. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano nuovi cenni di pesantezza rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i poli a terra vengono pagati da 0,90 a 0,98 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,16 e 1,20, le anatre tra 2,07 e 2,11, le faraone tra 2,202, i conigli oltre di chilo e mezzo a 1,32 e 1,38, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 17,43 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Una piccola depressione con aria fredda in quota sull'Alto Adriatico porta a condizioni di instabilità anche sulla nostra regione. Martedì e mercoledì affluiranno correnti settentrionali umide. Lunedì avremo generalmente cielo da nuvoloso a coperto, con piogge sparse in genere deboli. Sarà possibile anche qualche temporale, più probabile sulla costa e sulle zone orientali. Le temperature massime non saranno superiori ai 23 gradi. Martedì nuvolosità variabile con tempo migliore al mattino e la possibilità di qualche rovescio o temporale nel pomeriggio, più probabile su pianura e costa. Le temperature massime torneranno ad aumentare. Da mercoledì l'avvicinamento di una depressione atlantica porterà sull'Italia correnti sud-occidentali ancora piuttosto instabili. Mercoledì al mattino il tempo sarà ancora piuttosto bello, poi cominceranno a svilupparsi dei temporali, specie sull'alta pianura e sulle prealpi, mentre sulla costa il cielo rimarrà pressoché sereno. Anche giovedì e venerdì il tempo rimarrà instabile, con la probabile formazione di temporali pomeridiani. Sabato e domenica un temporaneo promontorio anticiclonico potrebbe interessare l'Italia, mantenendo tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra regione. Come sempre, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata odierna, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano. Se prima di San Vit li smonsci svolinator, varin l'estat, plui cialde dal for. Ovvero se prima di San Vito, il 25 giugno, le mosche volano, attorno avremo l'estate più calda del forno.